Ricominciamo. Buongiorno a tutti. Ciao. Oggi riprendiamo la nostra Mishnah, Trattato di Pesachim, quinto Perek, capitolo 5, Mishnah Bet, la seconda Mishnah, e proseguiamo nelle halachot che riguardano il Korban Pesach, che abbiamo già iniziato la prima Mishnah di questo Perek la scorsa volta, in cui si parlava dell'orario del Korban Pesach, anche relativo all'orario del Korban Tamid, e ora proseguiamo con altre indicazioni che riguardano il Korban Pesach. In generale, bisogna sapere che nelle Korbanot, in qualsiasi Korban, qualsiasi sacrificio animale che si fa, ci sono alcune azioni che sono essenziali e alcune intenzioni, come vedremo, che sono essenziali perché il Korban sia considerato valido, kasher, e non pasul, invalido. Queste quattro cose sono avodot, sono fasi nella avodah, nel servizio che si fa nel Beit HaMikdash, che rendono per possibile il mettere il Korban sul Mizbeach e eventualmente, se è un Korban da cui anche una parte viene tolta per mangiare, rendono possibile anche questa fase qui. Quali sono queste quattro fasi? Queste quattro fasi, se volete scrivere, sono numero uno la Shechita. La Shechita. Numero due, il ricevere il sangue della Shechita in un recipiente consacrato per la Avodah, direttamente dal flusso, primo flusso della Shechita. La terza cosa è il trasportare da parte del Kohen in questo recipiente il sangue verso il Mizbeach. E la quarta cosa è gettare un po' di questo sangue sul lato del Mizbeach. Ogni Korban ha la sua indicazione specifica da quale lato e in che maniera e quante volte. Ma in generale le quattro cose sono queste. Se durante queste quattro azioni, colui che le sta mettendo in atto deve avere in mente che sta facendo questo per quel Korban, quel tipo di Korban, che è il tipo di Korban che ha davanti. Per esempio il Korban Pesach deve essere fatto l'Eshem per il Korban Pesach e l'Eshem è per il specifico, la persona specifica che sta portando quel Korban Pesach. Se è un Korban di un individuo, deve avere in mente il tipo di Korban che sto facendo questa Shechita per Korban Pesach, per il signor Levi. Ok? Secondo alcuni poskim, non lo deve non solamente tenere in mente, ma lo deve precisare, pronunciare con la parola. Io sto facendo questo per questo Korban, per questa persona. Qualora non si facesse questo, o qualora si facesse per un altro Korban, o per un'altra persona, o con un'altra intenzione che si approfondisce da un'altra parte, vedremo qui solo una parte, allora il Korban rimane non valido, va rifatto, un altro Korban. Allora la nostra Mishnah ci insegna però nello specifico riguardo il Korban Pesach, appunto, che anche qui vale questa regola, che il Korban Pesach deve essere, si chiama Lishma, Lishmo, per il Korban Pesach, in maniera esplicita e chiara. C'è anche scritto nella Torah, Va'amartem Zevach Pesach Hu. E direte, questo è un sacrificio di Pesach. Allora, vediamo il testo della nostra Mishnah e man mano approfondiremo passo per passo. La Mishnah dice così. Ha Pesach, cioè il Korban Pesach, ok? Sheshechato, che la persona lo ha shachtato, shelo lishmo. Non per il nome del Pesach, ma per il nome di un altro Korban, per errore. Per esempio, l'ha fatto per un Korban Shlamim. Korban Shlamim è anche un Korban di cui I proprietari mangiano una parte, i Kohanim mangiano una parte, il Mizbeach consuma una parte. Invece di farlo l'Hashem per il Korban Pesach, l'ha fatto l'Hashem, per esempio, Shlamim, un altro tipo di Korban. Non aveva in mente né ha pronunciato il riferimento corretto. Ha pronunciato e ha avuto in mente il riferimento sbagliato. Esatto, sì, non ha fatto sì, sì. Quindi, se ha fatto o la Shechita, o Vekibel, o la ricezione della la seconda fase che dicevamo, del sangue della Shechita, o Vehilech, o il far trasportare il sangue verso il Mizbeach, o Vezarak, o il gettare, spruzzare il sangue sul Mizbeach. Una di queste quattro cose, quattro avodot, servizi, ha fatto Shelolishmo, non per il nome del Pesach, ma per un altro Korban. Oppure, la Mishnah poi dirà che questo è invalido, ma prima la Mishnah aggiunge anche un altro caso, che sembra forse potrebbe essere valido, ma anche quello non sarà valido. Oppure, Lishmo, invece lo Lishmo, l'ha fatto per il nome del Pesach, ma poi ha cambiato idea, e ha deciso no, lo faccio per Korban Shelamim. Lishmo, per il suo nome del Pesach, invece lo Lishmo, cambiando poi idea per un altro Korban. Oppure l'opposto, anche se avesse fatto, guardiamo, Oshelo Lishmo, la fine della prima riga, Oshelo Lishmo, oppure ha iniziato con intenzione di un altro Korban, ma poi ha detto cosa sto facendo, questo è un Pesach, ve Lishmo, ha detto no, è per il Pesach, quindi è tornato al Korban Pesach con l'intenzione, avendolo pronunciato. In tutti i casi ovviamente per distinzione volontaria. Sì, in tutti questi casi Pasul. In tutti questi casi il Korban è invalido. Il pensiero non idoneo rende invalido il Korban. Anche se avesse cambiato idea in mezzo, in entrambi i versi, diciamo così. Partendo dal Pesach verso un altro, oppure anche il contrario, da un altro verso il Pesach, come intenzioni. La Mishnah spiega in maniera... La Mishnah dà un esempio. Cosa significa Lishmo veshelo lishmo? Io ve l'ho spiegato perché, però la Mishnah adesso lo spiega. Cosa significa per il suo nome e non per il suo nome? E la Mishnah spiega Leshem Pesach, per esempio, se originariamente la sua idea era per il Pesach, giusto? Come per esempio se lui ha iniziato a shachtare il Korban per Korban Pesach, ma poi ha concluso shachtando pensando al Korban Shelamim, Leshem Shelamim, oppure il contrario, Shelo Lishmo Velishmo, il contrario sarebbe Leshem Shelamim, inizia la Shchita per esempio a nome di un Korban Shelamim, però alla fine conclude Leshem Pesach. Come abbiamo detto, in entrambi questi casi il Korban sarebbe invalido. Quindi conta più che altro l'intenzione. Conta nel Korban l'intenzione in queste quattro fasi del Korban. Sì, devono essere perfette queste quattro fasi. Se una di queste quattro fasi che abbiamo detto, queste quattro avodot, non sono perfette, a livello di intenzione, di esplicitare per quale motivo lo sta facendo, allora il Korban è invalido. Ok? Ok, questa è la prima Mishnah che abbiamo visto oggi, Mishnah Bet. Ora, sì? Una buona domanda. Può darsi che lui lo può chiedere. Visto che è molto attento allora sul fatto del bene comune, che non sì, va disperso. Devo controllare questa cosa. Hazak. Hazak? Sì, sì. Hazak. Ottima osservazione. Okay. Andiamo alla prossima Mishnah. La Mishnah ora dice, oltre alle quattro avodot a cui bisogna fare attenzione in tante modalità di Korbanot, non solamente nel Korban Pesach, ci sono delle situazioni specifiche a cui bisogna fare attenzione nel Korban Pesach. Ci sono delle regole che si applicano solo nel Korban Pesach e anche qui bisogna fare attenzione con l'intenzione. Il motivo per cui si fanno queste cose o per conto di chi si fanno queste cose. Allora, il Korban Pesach, come sapete, bisogna che sia tutto consumato fino a mezzanotte della sera di Pesach. In teoria fino all'alba, però si anticipa a mezzanotte per non arrivare più tardi. Quindi deve essere totalmente consumata. Com'è possibile consumare un intero agnello dopo che si è già cenato? Perché il Korban Pesach ne'echal al hassova, come noi mangiamo la ficomen dopo cena, in ricordo del Korban Pesach che si mangiava dopo cena. Allora la Torah dice bisogna fare minui, bisogna nominare le persone che insieme consumeranno lo stesso Korban Pesach. Possono essere una intera famiglia, possono essere più famiglie. Ha Pesach ne'echal limnuyav. Il Pesach già da prima si prende il numeretto e ci si mette d'accordo chi mangia quale Korban Pesach. Insieme. 20-30 persone, quello che è. Importante che ognuno abbia la possibilità di mangiare un volume minimo di un kazait, del volume di un'oliva, che è il minimo volume di cibo alachicamente che è necessario mangiare quando c'è una mitzvah di mangiare. Un kazait è poco per prendere un abbacchio intero. Un kazait è poco, di conseguenza abbiamo tante persone. Tante persone. Poi si finiscono bravo. Le persone prima. Lo rende più facile, si fanno tante persone insieme. Anche per assicurarsi di riuscire di avere il numero di persone sufficiente per sì, la Torah dice se non siete abbastanza in una casa per finire tutto un agnello, andate, unitevi con uno di un'altra casa, ma questo deve essere fatto da prima. Ma è il punto dove si dice, c'è un punto che dice a seconda di quanti sono si prende l'animale. Esatto. È questo. Sì, sì, sì, sì, nella parasha di Bo. Vimimata bait miyot misev la kachu, shcheino, vai con il vicino. Kazait è il minimo, ma poi mangia di più. Sì, sì, sì, sì, però devi essere sicuro che si conclude tutto, perché non si può lasciare, annotarmi menu. È un divieto di lasciare le rimanenze. È sempre riferito al concetto che si usa tutto e si compra tutto. Sì, sì, sì. Dall'altra parte però, più o meno. Sì. Ok, vediamo, ragazzi, signori, scusate. Cerchiamo di non perdere il filo. Allora, la prima cosa è bisogna che sia totalmente concluso. Un'altra regola a cui bisogna fare attenzione è chi può essere considerata una persona che si unisce al gruppo che mangia il Korban Pesach. Una persona che può mangiare un kazait di carne, un volume. Se una persona, per esempio, è malata e non la può mangiare, non può essere considerata nel numero delle persone. Ok? Allora, chi altro non può mangiare il Korban Pesach? Un ebreo non circonciso. Un ebreo che non è circonciso, Arel. Chi altro non può mangiare il Korban Pesach? Un non ebreo. Chi altro non può mangiare un Korban Pesach? Un tamè, colui che è in uno stato di impurità rituale. Chi ha la tumà deve fare il Korban Pesach Sheni, dovrà fare. Ma ora non può. Le donne sono comprese lì. Le donne sono comprese, certo. Ora la Mishnah dice, Shchato, se la persona fece il Korban, la Shechita, scusate, Shechato, fece la Shechita, oppure un'altra delle quattro, delle tre avodot che abbiamo detto prima, Shelo leochlav, tenendo in mente delle persone che non lo possono mangiare, per esempio che è malato e non può mangiare il korban, Veshelo limnuyav, oppure tenendo in mente delle persone che non sono state, non si sono nominati, come dire, sì, contati su quel korban, non c'è un biglietto, oppure la Areilim, oppure per degli incirconcisi, oppure Velatmeim, oppure per degli impuri, che in tutti questi casi non possono mangiarlo. Allora la Mishnah dice, il Korban è Pasul. Quindi uno non si può unire anche al gruppo già definito? No, deve essere definito da prima della Shechita. fa parte della completezza. Ma del... io ho una domanda. Che vuol dire questi Arelim, quelli che non sono circoncisi? Arelim è un uomo sono... che non è circonciso. Ma che vuol dire? Esiste già che non ci sono... Che significa esiste? Noi stiamo parlando il caso, se ebrei. Esistesse. Tu parli sì. sempre di ebrei non circoncisi. Sì, sì. Oh. Allora, signori, questo non significa che c'era un ebreo che non era circonciso. Questo significa che se ci fosse un ebreo che non è circonciso non può mangiare il Corban Pesach. Per esempio, può essere un caso che una persona per salute non può fare la Milà. Ci sono delle halachot, per esempio, se un fratello nasce, un bambino, si fa la Milà e sanguina troppo, in maniera pericolosa. Ok, allora forse al secondo, al terzo figlio non si può fare la Milà. Ok? Allora significa non è per colpa sua, però il Corban Pesach non lo può mangiare. Ok? E storicamente ci sono state tante situazioni, per esempio anche il primo Corban Pesach, gli ebrei hanno fatto la Milà appena prima. In Egitto la maggior parte degli ebrei non facevano la Milà. E allora? Anche quando stavano in deserto, quando sono entrati in Eretz Israel, dovevano fare il primo Pesach che hanno fatto in Eretz Israel. Yoshua ha fatto fare la Milà a tutti quanti. Ok, allora ci sono diverse situazioni, ma questo non è il punto. Il punto è, si parla dell'eventualità. Come quando tu leggi un libro di legislatura, leggi delle casistiche stranissime. Dici, scusa, ma chi l'ha scritto questo? No, la legislatura deve prendere conto di tutte le possibilità. Non è un libro di storia. È un libro di teoria, cosa si applicherebbe se fosse così e così, come legge. Per questo nel Talmud, nella Mishnah, potete trovare dei casi che vi sembrano strani, ma bisogna tenere conto di cosa stiamo studiando. Le Hagdil Torah u le Hadira, si studiano anche dei casi che possono forse mai esistere. Fa parte della grandezza della Torah. Mai esistere nel livello pratico, però. Ok. Allora abbiamo detto che se si fa a nome di queste situazioni, il Corban è passul, invalido, giusto? Ok. Poi, se lo si fa alternato, come abbiamo detto prima riguardo gli altri, leochlav veshello leochlav, l'ha fatto a nome di chi davvero lo mangerà o chi lo può mangiare, e poi ha anche avuto intenzione dopo, cambiando idea, per chi non lo può mangiare, veshello leochlav, per coloro che non sono in grado di mangiare un kazait, oppure limnuyav, veshello limnuyav, prima tenendo in mente le persone che sono nominate per quel korban, che sono contate per quel korban, e poi tenendo in mente e facendolo per le persone che non sono nominate per quel contate per quel korban. Oppure la mulim ve la arelim, ha avuto tenuto in mente le persone che hanno la milà e poi quelli che non hanno la milà, o la tmeim ve la tehorim, oppure prima le persone impure e poi anche persone non pure, e il contrario, prima impure e poi pure. Lo stesso di prima, ma sì, però aspetta, kasher, in questi ultimi casi il korban è kasher, cioè se ha avuto in mente entrambe le situazioni, cambiando idea in mezzo, da coloro che lo possono mangiare a coloro che non lo possono mangiare, da coloro che sono contate a coloro che non sono contate, ai circoncisi, dai circoncisi ai non circoncisi, dagli impuri ai puri, in questi casi il Corban è kasher. Non come nella Mishnah che abbiamo visto prima, che entrambi i pensieri, anche se ci sono una delle due pensieri, è valido, il Corban non è valido. In questo caso sì. Perché? Per quale motivo in quel caso non è valido comunque e in questo caso la parte non valida del pensiero rimane comunque valido il Corban? La Gemara spiega, quando analizza questa Mishnah, c'è una differenza di base tra i casi esposti nella Mishnah precedente e i casi appena esposti qui in questa Mishnah. Nei casi esposti nella Mishnah precedente, l'invalidità riguarda il Corban stesso. Cioè il Corban stesso dipende dalla validità di quelle quattro avodot che sono state indicate prima. Qui stiamo parlando di una validità che dipende non dal Corban stesso, ma di un elemento esterno. Chi lo mangia, o lo può o non lo può mangiare, o è o non è circonciso, o è o non è puro, sono elementi esterni. Quindi, dal momento in cui c'è un pensiero sì valido, l'altro pensiero a cui cambia in mezzo, che non è valido, per esempio per gli incirconcisi, non rende più invalido il pensiero già validato prima, essendo un elemento esterno al Corban. Ok? Ora, però, secondo aspetto, Shechato Kodem Chatzot, c'è anche un problema di tempistica. Se ha shachtato il Korban Pesach prima ancora del Chatzot, cioè del mezzogiorno alachico, abbiamo già visto nella prima Mishnah di questo capitolo, nella lezione scorsa, che c'è un orario minimo per poter fare il Korban Pesach, che deve essere dopo il Korban Tamid, eccezione di tutte le Korbanot sono sempre prima del Korban Tamid pomeridiano, il Korban Pesach e dopo il Korban Tamid pomeridiano. Quindi si anticipa il Korban Tamid pomeridiano alla prima ora possibile, cioè alle mezzogiorno e mezza alachiche, 6 ore e mezza nella giornata, orari diurni. Ok? Scusate, 7 ore e mezza alachiche. Si fa il Korban Tamid nei giorni di Erev Pesach, abbiamo visto nella Mishnah. Normalmente è 8 ore e mezza. E Korban Pesach, e nella vigilia di Pesach lo si anticipa di un'ora a 7 ore e mezza. A meno che Erev Pesach viene di venerdì, allora si fa a mezzogiorno e mezzo, nel primo orario proprio possibile. Ma se si fa il Korban Pesach proprio addirittura prima di Chatzot, ancora prima del mezzogiorno, che non possiamo neanche minimamente dire che rientra in quello che la Torah dice Ben Ha'arbaim, pomeriggio, allora Pasul, il Korban Pesach shachtato prima di Chatzot è invalido, Mishum Sheneemar, perché è detto nella Torah Ben Ha'arbaim, Veshachatu oto kol kahal adat Israel Ben Ha'arbaim, c'è scritto nella Torah che bisogna shachtarlo nel pomeriggio, ecco, almeno da mezz'ora dopo Chatzot, 6 ore e mezza come minimo. Ben Arbaim significa quando il sole continua, inizia ad andare verso Arbaim, verso Erev, verso Ovest, verso sera. Ok? Se invece avesse shachtato il Korban Pesach in un orario che può essere valido, ma ancora non è stato shachtato il Korban Tamid, come abbiamo di nuovo, ripeto, abbiamo detto nella Mishnah l'altra volta, che il Tamid deve essere prima del Pesach, ok? In quel caso, kasher, il Korban a posteriori di Pesach fatto in orario giusto, cioè Ben Arbaim, pomeridiano, ma prima ancora che fosse stato shachtato il Korban Tamid, il Korban rimane kasher a posteriori, non bisogna rifarlo, però, c'è un però, cos'è il però? Ubilevad, ma solamente, sheyehe echad memares bedamo, uno deve movimentare, mischiare il sangue perché non si coaguli, il sangue della Shechita che va gettato un po' sul Mizbeach, ad sheyizarek dam hatamid, finché non sarà gettato sul Mizbeach il sangue del Tamid, e poi getterà il sangue del Pesach anche che è stato shachtato prima, per renderlo valido, almeno a posteriori. Quindi significa, ha shachtato il Korban Pesach, e poi gli hanno detto, oh, che fai? E ancora non hanno shachtato il Tamid. Ok, prendi il sangue e tienilo movimentato. Aspettiamo, adesso si sta shachtando il Tamid, si fa il sangue del Tamid e poi facciamo il sangue del Pesach. E sarà reso valido bediavada posteriori. Cosa succede se anche il sangue l'ha fatto prima del Tamid? Veim Nisrak. E se ha shachtato e ha portato e ha gettato il sangue e poi si sono accorti che il Tamid ancora non è stato fatto? Kasher, è sempre Kasher bediavad. Bediavad significa a posteriori. Perché sbaglio non è più un sbaglio. In questo caso è accettabile a posteriori. La Gemara spiega che l'orario è indicato ed è obbligatorio, ma non fino al punto di rendere invalido. Dunque accettano qualche errore. A meno che si fa prima di Chatzot, quello abbiamo detto all'inizio, in mezzo alla nostra Mishnah, che Kodem Chatzot Pasul, quello non è proprio, non rientra proprio. Ora, abbiamo un'altra regola che riguarda il Pesach. C'è scritto nella Torah due volte, una volta usa un termine, una volta un altro, ma il senso del versetto che dice lo tishchat al chametz dam zivchi, non shachtare il mio korban, in teoria si parla del Pesach, ora vediamo l'approfondimento, quando ancora hai il chametz nella tua proprietà, nel tuo possesso. Vi ricordate che abbiamo studiato che il chametz non solo non si mangia, ma non può neanche essere in nostro possesso già dalla vigilia di Pesach, da un certo orario, come abbiamo approfondito, e si lega, la Torah lo lega anche al Korban Pesach, cioè non si può shachtare il Korban Pesach quando ancora il chametz è in nostro possesso. Cosa succede se qualcuno lo fa? Vediamo la Mishnah Dalet. Hashochet et ha Pesach. Colui che sta facendo shachtare, o lui sta shachtando il Korban Pesach. Al hachametz, quando ancora ha del chametz in proprio possesso. Parentesi, non solo chi sta shachtando, ma tutti coloro che sono contati su questo Korban Pesach. Se uno di loro ha del chametz in proprio possesso, si applicherà la stessa regola. Altra parentesi, non solamente la Shechita, ma tutte le quattro avodot che abbiamo detto prima, quindi Shechita, ricezione, trasporto e getto del sangue, in una di queste fasi, se una delle persone ha del chametz in proprio possesso, rientra in questa regola che adesso diremo. Over belotase. La persona che ha chametz in proprio possesso durante il momento in cui si fa una di queste fasi del suo Korban Pesach, del Korban Pesach a cui lui è legato, ovver trasgredisce un lo ta'aseh, una trasgressione negativa, una mitzvah negativa della Torah. Però scusa, che vuol dire che ce l'ha addosso? Oh. O che ce la può avere a casa, o non ha fatto il chametz a casa? Ha in suo possesso, come abbiamo detto, che bisogna addosso, non addosso, no, sua proprietà. E che non ha fatto la non ha fatto la ricerca, quello che sia, non ha reso invalido, non ha reso batel, annullato, non ha, ha del chametz in proprio possesso. Ora non entriamo nella modalità specifica, vabbè, perché l'abbiamo approfondita tanto nel primo capitolo. Ok. Cosa significa ha fatto un lot a sé? Allora sappiate che questo significa che lui avrebbe una punizione, che è la punizione delle frustate, malkot. Ammazza. Cioè per un lot a sé, per una mitzvah negativa, se non è specificato in maniera diversa nella Torah, cioè se non è una pena più grave come il karet o come una morte del betin, se non è specificato, allora il lota a sé e la punizione della mitzvah negativa è malkot, frustate. Sì. Solo concludo. Eccezione, un lota a sé in cui non c'è un atto coinvolto. Se è una cosa negativa che si lega solo, è una mitzvah negativa, ma solo nel pensiero o nella parola, non in un atto concreto, allora non c'è malkot. Però qui c'è un atto, perché il korban è un atto che si fa. Quindi perché la Mishnah ci sta dicendo over belot a sé significa che c'è una punizione di malkot, di malkut, di frustate. Però non abbiamo detto se il korban stesso rimane valido o meno, perché effettivamente il korban stesso rimane valido. E la persona, quindi, che la Mishnah fa di questo problema, il soggetto diventa non il Korban, ma la persona. Over belota se. Hashochet, colui che shachta, o colui che fa una delle quattro cose. Mentre lui ha del chametz e lui che ha un problema di un lota a sé. Il Korban stesso rimane valido. Il soggetto qui non è più il Korban, è la persona. Mm-hmm. Ok? Qual è la domanda? Se praticamente il responsabile è sempre la persona, si carica la responsabilità sempre chi fa lo... No, in questo caso è chi ha il chametz in suo possesso che ha fatto la trasgressione, non chi ha fatto la shchita. Allora, c'è un Korban Pesach su cui sono contate 20 persone. Una di queste 20 ha del chametz in suo possesso. Lui ha fatto una trasgressione. Tutte le altre 19 persone non hanno fatto trasgressione. E anche lui, tutte le 20 persone, hanno un Korban Pesach valido. E lui, oltre il Korban Pesach valido che ha, ha una trasgressione che ha del chametz in suo possesso. Quindi, durante che si fa il Korban Pesach. Se uno solo ha il chametz, il Korban rimane valido e lui ha la punizione. Anche se 20 hanno il chametz, il Korban rimane valido. No, era per dire, anche il minimo, anche uno solo, o tutti quanti, si mantiene valido il Korban, ma il responsabile, chiamiamolo così, che ha il chametz... Ha una sua trasgressione personale. E il Korban rimane fuori da questo discorso, rimane valido. Anche per lui rimane valido. Anche per lui. È valido per tutti. No. Il Korban sì. È proprio l'atto materiale, no, della scelta del Korban, andava fatto per forza al Tempio, questa... Al Bet HaMikdash, assolutamente, assolutamente sì. Per cui, solo nel Bet HaMikdash. Solo nel Bet HaMikdash, per cui chi veniva da fuori doveva comunque... Per questo Aliyah alla Regel, dovevano venire al Bet HaMikdash per fare il Korban Pesach. Per questo chi è lontano, abbiamo studiato nella parasha scorsa, rientra nel discorso della... esenzione e l'obbligo gli si rinnova al Pesach Sheni. Chi è una certa distanza lontano dal Bet HaMikdash, la vigilia di Pesach, non è obbligato ad accorrere, ma è obbligato a portare il Korban Pesach Sheni un mese dopo. Ok, questo è il primo caso. Ora la Mishnah aggiunge Rabbi Yehuda. Ecco l'amico nostro Rabbi Yehuda. Questo è un altro Yecheskel. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dice, Af HaTamid, anche il Korban Tamid del pomeriggio, Shel Ben Arbaim, che lo si è shachtato, mentre ancora qualcuno ha del chametz in proprio possesso, in questo caso non è qualcuno a caso, è chi fa la shechita del tamid. O chi porta il tamid, il sangue, le quattro avodot che abbiamo detto, se lui avesse ancora del chametz in proprio possesso, non solamente per il Korban Pesach, ma anche per il Korban tamid pomeridiano della vigilia di Pesach, anche lì si applica la stessa regola che lui ha una trasgressione. Cioè, secondo Rabbi Yehuda, anche il Korban Tamid del Korban Pesach non lo si può fare se si ha ancora chametz in proprio possesso. Visto che la Torah dice Zivchi, non dice Zevach, il Korban, ma dice Zivchi, il mio Korban, Rabbi Yehuda ritiene che esiste una derasha, secondo la quale la Yud, in più che fa sì che si legga Zivchi e non solamente Zevach, va ad alludere ad un ulteriore Zevach, un ulteriore Korban. Il Korban che è totalmente per Hashem, che è il Tamid, Zivchi, il mio Korban. Quindi secondo lui, la Gemara spiega questa drasha, ma in ogni caso secondo Rabbi Yehuda si aggiunge a questo divieto anche per coloro che mettono in atto il Korban Tamid di quel giorno, che loro non possono avere in possesso chametz nel momento in cui fanno il Korban Tamid del pomeriggio, appena prima che si fa il Korban Pesach. Allora, se il chametz lo ha quello che proprio fa l'azione, fa la shechita. Come? Stiamo vedendo il caso, se il chametz lo ha, chi proprio fa. Esatto, o una delle quattro azioni, quattro avodot. Lui ha una trasgressione. Anche lui le frustate. Esatto. E il Korban come rimane? Kasher. Ugualmente rimane kasher. Uguale. Sì. Il soggetto qui è la persona. Sì, sì, sì. Rabbi Shimon Omer. Viene Rabbi Shimon e dice la seguente cosa. Rabbi Shimon Omer. Ha Pesach be'arba'a asar. Il Korban Pesach. Il 14 di Nisan, la vigilia di Pesach. Lishmo, che lo ha shachtato per il nome del Korban Pesach. Come deve fare, come abbiamo detto nella seconda Mishnah, la prima che abbiamo studiato oggi. Però il sottointeso è il caso che stiamo parlando, che lui ha in possesso del Chametz. Lui ha in possesso del Chametz e sta facendo shachtare il suo Korban Pesach giustamente per il nome del Korban Pesach. Allora dice Rabbi Shimon, solo in questo caso Chayav, solo in questo caso è colpevole della trasgressione che abbiamo detto che tu shachti il Korban Pesach mentre hai ancora del Chametz. Mentre invece Veshelo Lishmo, se ha fatto un errore che l'ha shachtato non per il nome del Pesach, ma per il nome di un altro Korban, allora guadagna l'altra trasgressione, non ce l'ha più, Patur. È esente dal fatto di shachtare il Pesach quando hai il Chametz, perché un altro Korban si può shachtare quando si ha Chametz. Allora l'ironia, che lui per il Korban Pesach ha fatto un errore, perché l'ha fatto non per il nome del Korban Pesach, ma si è salvato dalla trasgressione perché di avere il Chametz, possesso di Chametz, mentre shachta il Korban Pesach, perché l'ha shachtato per un'altra cosa. Rimane il fatto che è ancora da fare il Korban Pesach. Assolutamente. Però sì. Il Korban Pesach è invalido. Perché deve essere... Ripeterlo. Certo. L'altra volta. Certo. Rimane fuori quello ancora. È valido, però lo deve rifare un'altra volta. Perché no, quello del Pesach era però, è diventata un'altra cosa. No. Non è valido, deve rifare quello il motivo Pesach. Per cui... Allora, ragazzi, il motivo per cui non è passibile della trasgressione di shechtare il Pesach mentre ha ancora Chametz in proprio possesso, il motivo è perché quel Korban Pesach è invalido. Quindi come non è un Korban Pesach alla fine. Certo. Allora è come se non avesse fatto un Korban Pesach, quindi non puoi dire sei passibile della trasgressione di fare il Korban Pesach mentre hai Chametz. Non ho fatto il Korban Pesach. Certo. Però ha fatto un Korban Tamid. Ha fatto un Korban, non è Tamid, possiamo chiamarlo un altro nome. Sistema, sì. Shlamim. Ok? Però il Pesach lo deve rifare, però deve levarsi. Questo è Pasul, non è considerato un Korban e quindi la Shchita non è considerata una Shchita di un Korban e quindi non è passibile della trasgressione di avere Chametz in proprio possesso durante la Shchita del Pesach. Ok? Però, Ushear Kol Azvachim, tutte le altre Korbanot che avesse fatto Korban Pesach, che avesse fatto, scusate, la vigilia di Pesach, se per esempio ha fatto un Shlamim, un Korban Shlamim, la vigilia di Pesach. Ben Lishman u ben Shelo Lishman, che sì l'avesse fatto per il loro nome giusto. Quindi sono rientrati nella modalità che dovevano rientrare. U ben Shelo Lishman, e sia che l'avesse fatto non per il nome giusto, e quindi non sono rientrati per il motivo per cui sono stati davvero portati. E che comunque sarebbero kasher, come possibile? Perché per esempio ci sono delle korbanot, come nedarim e nedavot, cioè dei doni o dei voti, la persona dice io faccio un neder, faccio un voto che porto tale korban. Se si porta quel korban, ma non si tiene in mente esattamente l'ishmo per colui che l'ha portato, il korban è valido. Lui deve portare un altro perché il suo obbligo non è stato riempito, non è stato adempito perché non è stato fatto per lui. Ma il Korban non è invalido come nel Pesach che diventa invalido. Rimane valido, ma lui è semplicemente come se non l'avesse fatto lui, come se avesse fatto qualcun altro, tra virgolette. Ok? In questi casi, che sia fatto a nome suo o non a nome suo, il Korban è comunque valido, ma la persona patur, anche se ha Chametz in proprio possesso, non c'è nessun problema, cioè non è passibile della trasgressione di fare una shechita di un korban mentre si ha chametz in proprio possesso, perché questo riguarderebbe solamente il korban Pesach, secondo Rabbi Shimon. Secondo Rabbi Yehuda riguarda anche il korban Tamid. Rabbi Shimon, bisogna vedere se discute con Rabbi Yehuda o vuole precisare che per korbanot personali, il Tamid è un korban a nome di tutto il popolo, ma per korbanot personali questo problema riguarda solo il korban Pesach. se la persona porta un neder, un'offerta di una nedavà, di un'offerta o di un dono, a nome suo o non a nome suo, può essere che gli viene considerato o non gli viene considerato, ma anche se ha chametz in proprio possesso, non è passibile della trasgressione. È solo per il Korban Pesach che è passibile. Patur è esente da questo, da questa trasgressione, cioè non è passibile. Ubamoed, se shacht el Korban Pesach durante Pesach, nel Moed, mentre ha chametz durante Pesach stesso, ancora in proprio possesso, allora l'ishmo, se lo fa a nome del Pesach, patur, è esente dalla trasgressione. Perché? Perché non è più il momento del Korban Pesach. Korban Pesach bisogna shachtarlo la vigilia di Pesach. Se lui lo shachta durante Pesach a nome del Korban Pesach, di nuovo è come se non avesse fatto un Korban. E quindi non è passibile della trasgressione di avere chametz in proprio possesso mentre fa il Korban Pesach, perché non è considerato più un Korban Pesach. Cioè, l'ha fatto bene, tra virgolette, a nome del Pesach, proprio perché l'ha fatto bene, non è passibile, perché non può essere a nome del Pesach. Non c'è un Pesach adesso. Pesach c'è la vigilia, il 14, lui ha fatto il 15. Mentre invece ce l'ha fatto, ce l'ho l'ishmo, se l'ha fatto non per il nome del Pesach, per esempio l'ha fatto per Shlamim, come abbiamo detto prima, per un altro tipo di Korban, allora Chayav, perché allora è passibile della trasgressione di aver fatto un Korban mentre ha del chametz in proprio possesso, perché questo è sì un Korban valido, perché Shlamim si può sì fare oggi, durante Pesach. Sì. Chayav cosa vuol dire esattamente? Chayav è colpevole, dovuto. Letteralmente significa. Chayav. È passibile della trasgressione. Deve. E quindi, Ushar kol hazvachim, tutti gli altri tipi di korbanot, ben lishman, ben shelo lishman, se l'avesse fatto a nome loro o non a nome loro, se l'ha shachtati durante Pesach con il chametz in proprio possesso, chayav, rimane passibile della trasgressione, perché visto che queste korbanot rimangono kasher, non devono essere rifatte, significa sono valide come korbanot, e si applica il divieto di shachtare il korban quando si ha in possesso il proprio chametz. Perché questo è sempre secondo Rabbi Shimon, che quando non è più passibile per il non shachtare con il chametz in proprio possesso per il Korban Pesach, quindi perché è già diventato Pesach, non è più l'orario del Korban Pesach, diventa passibile per la stessa trasgressione per le altre korbanot. Quindi se le fa bene, cioè che avrebbero validità, è passibile della trasgressione, rimangono valide, ed è passibile della trasgressione di avere chametz in proprio possesso. Chutz, c'è un'eccezione. Chutz min ha-chatat she-shchatah she-lo lishma. Tranne il korban chatat, quello che è legato all'espiazione di un peccato, un certo tipo di korban che si chiama chatat, che se lo ha fatto she-lo lishmo, non ha fatto una delle quattro azioni per il motivo del chatat stesso, allora in quel caso il korban è invalido, non come il neder o la nedavà che abbiamo detto potrebbe rimanere valido, e quindi essendo il korban invalido è come se non ci fosse un korban, e di conseguenza anche se ha il chametz in proprio possesso non è passibile della trasgressione, però ovviamente deve rifare il korban chatat fatto bene a nome suo. Ok? Bene, allora oggi abbiamo studiato tante nuove novità, regole che riguardano il korban Pesach.